Quindi possiamo vedere i tipi umani come una mappa molto utile per avere una comprensione dei tipici valori critici del persona. Quindi un filler avrà determinati valori critici, un judger ne ha degli altri, per esempio il filler appunto ha bisogno di essere riconosciuto e il judger ha bisogno di ordine. E qui adesso vorrei fare un collegamento tra aree sensibili, valori critici e appunto il termine che ho appena usato, bisogni. Bisogni e sentimenti. Bisogni e sentimenti sono un linguaggio che noi adoperiamo con difficoltà, maneggiamo con difficoltà perché siamo più abituati al linguaggio dei giudizi. Questa è tutta la tematica della comunicazione non violenta a cui rinvio sul testo di Rosenberg, Parlare pace, che consiglio a tutte le persone che sono interessate a sviluppare abilità comunicative e a sciogliere i conflitti con le persone, anzi a non provocarli neppure. Ogni volta che noi violiamo il valore critico di una persona, stiamo innescando in lei un bisogno, qualcosa di cui lei, che lei cercherà di ottenere in qualche modo, entrando non in uno stato di risorse, ma in uno stato problema. E quindi non ci troviamo più di fronte a una persona in grado di elicitare le sue parti migliori, ma le sue parti più regressive e, da un certo punto di vista, anche meno intelligenti, ecco, meno creative. Di qui l'importanza, dicevo, sia di conoscere, appunto, di conoscere i tipi umani, perché ci danno una mappa chiarissima almeno di alcuni dei valori critici fondamentali delle persone, e poi di saper imparare veramente a rispettare queste aree sensibili delle persone. In questo modo creeremo le relazioni sinergiche di cui abbiamo bisogno per poter raggiungere gli obiettivi che desideriamo. Obiettivi che, secondo questo modo di pensare che si accompagna ai tipi umani, presupposti di tipi umani e alla comunicazione non violenta, dovranno essere condivisi. Non stiamo parlando di una competizione per manipolare gli altri e di sviluppare abilità in questo senso, ma all'opposto si tratta di sviluppare quelle capacità che consentono alle persone di dare il meglio di sé. E sono queste proprio le capacità di un buon leader.